Le bottiglie sono aperte, questa roba va forte. Cinque tipi di erbe, non ho più paranoie. Questa notte posso splendere, aggiungi la mia gente. E questo è quello che serve per non farmi mai prendere dal panico. Panico, panico, panico, dal panico, panico, yeah, panico, panico, panico. Chiedo perdono per ogni sogno che infrangerò, però il tempo è troppo poco per rimpiangerlo. Un altro shot, devi mandarcelo, dolce come il bacio di un angelo. Dico quello che non puoi, faccio quello che non fai, sono quello che non sei, rappo quello che non sai. Bicchieri pieni di midori, liquori a go go. Se c'è sopra il palco lo sweat non è poco. Fanculo il futuro, devo andare a fare chill. Ho il cazzo duro nei miei boxer e la droga nei calzini. Tu saluta le leggende, non siamo più ragazzini. Ma la vita resta una merda, quindi puoi stare tranquilli. Le bottiglie sono aperte, questa roba va forte. Cinque tipi di erbe, non ho più paranoie. Questa notte posso splendere, aggiungi la mia gente. E questo è quello che serve per non farmi mai prendere dal panico. Panico, panico, panico, dal panico, panico, yeah, panico, panico. Con i bro, chi si impara, chi si spara, chi si cala, fumo 20 kg lala. Na na na, mi autodistruggo per noia, paranoia, pam pam pam. Brucio la city, situazione del cazzo che pare un tipo a repare, invece si sta impiccando nei suoi casini. Ti faccio fumare maschili, carico il carico, valico il panico, affari con i canivari. Tipo per aiuti umanitari, pari me, senza rap fallito. Tipo io fra 30 anni smarrito, intanto accontento, fanno incallito. Vai, foto vuoto, noto, rotoli di merda in moto svuoto. La mia merda, chi li derba bro, in arrivo. Tu cadevi mentre salivo, adesso che credo in me, vivo. Carico, vai in panico. Le bottiglie sono aperte, questa roba va forte. Cinque tipi di erbe, non ho più paranoie. Questa notte posso splendere, aggiungi la mia gente. E questo è quello che serve per non farmi mai prendere dal panico. Panico, panico, panico, dal panico. Panico, yeah, panico, panico. Siamo fuori, bitch!